progetto Portici, continuiamo a parlarne insieme a Antonella Salvi, funzionario specialista in beni culturali della Regione Emilia-Romagna, in conservazione e restauro e in qualche modo referente o se vogliamo responsabile insomma di questo programma operativo di tre istituzioni e un patrimonio. Esatto, tre istituzioni insieme, come collaborano tra di loro, cioè appunto comune, regione e accademia? Diciamo che alla base c'è un'operatività che coinvolge la Regione e l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Poi di volta in volta viene chiamata, diciamo, nel team di collaborazione l'istituzione che è titolare del patrimonio sul quale si interviene. Si decide assieme su quale segmento di patrimonio culturale del nostro territorio intervenire per un'attività di rigenerazione conservativa, ma anche di rigenerazione dei suoi valori e significati attraverso iniziative di valorizzazione, di divulgazione. E in questo caso, per esempio, abbiamo i materiali portici che sono straordinari, ovviamente per la nostra città come valore identitario, storico, culturale, architettonico, ma sono straordinari anche per noi perché ci consentono di allargare sempre di più la potenzialità delle attività messe in campo. Infatti non sono coinvolti solo i corsi di restauro, non sono coinvolti solo i corsi di design grafico che sviluppano il logo, il segno grafico per la comunicazione coordinata, sono in campo anche i ragazzi del corso dei linguaggi del cinema che creeranno un film, un video, una vera narrazione delle fasi operative di questo progetto e nei luoghi in cui si sviluppano questi lavori, e per la prima volta anche i ragazzi del corso di didattica dell'arte. Su questo ci teniamo moltissimo perché l'attività si trasforma ovviamente in strumenti e in attività vere e proprie di coinvolgimento dei giovani e di educazione al patrimonio dei giovani e dei cittadini tutti, attraverso la messa a punto di strumenti multimediali e anche attraverso la presenza di scuola nei portici. Per esempio qui vicino, in un portico diciamo caratterizzato da tratti di vandalismo su una Madonna, su un tabernacolo di un affresco, proprio così creando una partecipazione attiva ai lavori di manutenzione con la presenza dei ragazzi. Siamo fiduciosi che anche questo, analogamente alle edizioni precedenti, possa avere dei risultati di grande soddisfazione sia come esiti conservativi ma soprattutto come diciamo entusiasmo di lavoro di squadra fra varie istituzioni e fra tanti ragazzi e proprio anche per diffondere nella città una mentalità di condivisione e di responsabilità condivise. Evviva i portici di Bologna! Evviva!